Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Che cosa c'è dietro alle apparenti anomalie del nuovo rapporto sulla qualità della scuola? Se lo chiede Gian Antonio Stella, dalle pagine del Corriere. La Lega ha ragione. È molto difficile che Crotone abbia il triplo dei geni di Gorizia. Eppure, la tabella sui risultati agli esami di maturità del 2006, pubblicata dal primo rapporto sulla qualità nella scuola, dalla rivista Tutto Scuola, questo dice: gli studenti che si diplomano col massimo dei voti nella provincia calabrese sono il 20,5%, 1 su 5, contro un miserabile 6,7% dei ragazzi friulani. Com'è possibile? Se tutte le analisi OCSE del PISA, il Program for International Student Assessment, dicono che i giovani friulani e giuliani sono addirittura secondi al mondo, dopo i finlandesi, in scienze e terzi in matematica e cultura generale scientifica, dopo la Finlandia e il Canada, e quelli calabresi sono, con i siciliani, disperatamente nelle posizioni di coda. I conti non tornano. Basti dire che la media nazionale dei bravissimi promossi alla maturità col 100 su 100 è del 9,7, ma che praticamente tutti i serbatoi ricchi di geni, 1 su 7 a Cosenza, 1 su 8 a Terni, Macerata, Vibo Valentia, Messina, Caltanissetta, erano nel centro-sud. E tutti quelli apparentemente più scarsi, 1 su 12 a Modena, 1 su 15 a Milano, Varese, Lecco, Sondrio, a nord. Diciamolo. Nelle valutazioni degli studenti c'è qualcosa che non va. Il rimedio proposto da un gruppo di deputati leghisti, però, è un rattoppo peggiore del buco. Con un emendamento al disegno di legge sul lavoro 1441 quater che va in aula questa settimana e che contiene le contestatissime norme sui precari, Massimiliano Fedriga, Davide Caparini, Emanuela Munerato e Guido Bonino propongono che nei concorsi pubblici, d'ora in poi, nella formazione delle graduatorie non si tenga conto del punteggio del titolo di studio, il che, secondo loro, dovrebbe difendere i partecipanti usciti dalle scuole e dalle università del nord, più tirchie nei voti, dalla concorrenza di quelli usciti dalle scuole meridionali, più generose. La reazione dell'opposizione all'emendamento, fatto proprio dal governo, è stata dura, al punto che Marianna Madia, del Partito Democratico, è arrivata a dire che, alla faccia degli inutili e retorici proclami di Berlusconi sull'eccellenza e di Brunetta e Gelmini sul merito, assegnando gli stessi punteggi sia che si prenda 110 e lode, sia che ci si laurei col minimo dei voti, quella in questione è una norma salva asini. Studiata per proteggere amici e parenti dotati di scarsi curricula e portatrice di un messaggio devastante agli studenti. Studiare non serve. Basta il pezzo di carta, comunque lo si ottenga. Forse la deputata democratica esagera, ma è vero che la nuova regoletta, ammesso che passi così com'è, col suo contenuto che trasuda disprezzo e sfiducia nel mezzogiorno, rischia di ottenere effetti perversi. Primo, perché nelle realtà inquinate del familismo, che come dimostrano mille episodi non sono affatto soltanto al sud, quelli davvero bravi non potranno più contare contro i raccomandati neppure su un curriculum scolastico eccezionale. Secondo, perché ancora una volta viene tentata una scorciatoia per l'incapacità di affrontare la riforma vera, l'abolizione del valore legale del titolo di studio. Che senso ha stabilire che d'ora in avanti una laurea col 110 e lode nell'ateneo più selettivo non vale di più di una laurea presa col minimo nell'ateneo più scalcagnato? È così che si risolvono le cose? Avete ascoltato l'editoriale di Gian Antonio Stella, I voti non contano, solo una scorciatoia, dal Corriere della Sera dell'8 ottobre. Da 40 anni il nostro sistema educativo, università in testa, soffre di una mancanza di gestione e chi cerca di cambiare qualcosa incontra resistenze formidabili, scrive Angelo Panebianco sulle pagine del Corriere Magazine. La colpa più grave che si può imputare ai politici dell'Italia repubblicana negli ultimi 40 anni, grosso modo dal 68 in poi, riguarda il loro atteggiamento nei confronti del sistema educativo, quasi sempre ridotto a un problema di ordine pubblico per le periodiche agitazioni studentesche o a una questione sindacale, una questione di posti. Per 40 anni la qualità dei sistemi di istruzione non è mai stata un tema politicamente rilevante. Prendiamo il caso dell'università. Come sanno gli addetti ai lavori, i problemi principali dell'università sono oggi problemi di governo che, soprattutto nel caso dei grandi atenei, fa ormai acqua da tutte le parti. Sono diventati quasi ovunque ingestibili, anche a causa della loro composizione, i principali organi di governo: senati accademici, consigli di amministrazione, eccetera, e disfunzionali i loro rapporti reciproci e con l'amministrazione dell'università, le facoltà, i dipartimenti. Il punto è che senza una seria riforma dei sistemi di governo, le università non possono garantire efficienza. Le migliori comunque arrancano, le peggiori sprofondano. L'esperienza di altri paesi ci insegna che per riformare la governance dell'università occorre l'azione dei governi nazionali. Nell'attesa che ciò accada anche da noi, i volenterosi fanno quello che possono, cercano di promuovere autoriforme, ma vanno incontro a resistenze formidabili, che derivano sia dalla ragnatela di piccoli, per lo più, interessi che gli attuali inefficienti sistemi di governo alimentano all'interno degli atenei, sia dalla demagogia, nutrita di ignoranza, che percorre la società circostante. Letture di Radio 24. Negli Stati Uniti il debito medio delle famiglie è aumentato del 22% negli ultimi 8 anni. Nello stesso periodo, l'ammontare dei prestiti su carta di credito non pagati è cresciuto del 15%, mentre aumenta sempre di più il debito della futura elite economico-finanziaria, ovvero gli studenti universitari. Zygmunt Bauman, sociologo di origine polacca, professore emerito all'Università di Leeds in Inghilterra, analizza le cause dell'attuale crisi finanziaria. Un quotidiano britannico ha pubblicato la storia di un 51enne che ha accumulato un debito di 58.000 sterline su 14 carte di credito e finanziamenti vari. Con l'impennata dei costi del carburante, dell'elettricità e del gas, non riusciva più a pagare gli interessi. Deplorando col senno di poi la sconsideratezza che lo ha gettato in questa situazione spiacevole, se la prendeva con chi gli aveva prestato il denaro. Parte della colpa è anche loro, diceva, perché rendono terribilmente facile indebitarsi. La filosofia imprenditoriale vigente ribadisce che il commercio ha l'obiettivo di impedire che si soddisfino i bisogni, deve creare altri bisogni che esigano di essere soddisfatti e identifica il compito dell'offerta col creare domanda. Questa tesi si applica a qualsiasi prodotto, venga esso dalle fabbriche o dalle società finanziarie. La suddetta filosofia imprenditoriale si applica anche ai prestiti. L'offerta di un prestito deve creare e ingigantire il bisogno di indebitarsi. Le carte di credito erano state lanciate sul mercato con uno slogan rivelatore e straordinariamente seducente: perché aspettare per avere quello che vuoi? Desideri una cosa ma non hai guadagnato abbastanza per pagarla? Beh, ai vecchi tempi, ora fortunatamente andati, si doveva procrastinare l'appagamento dei propri desideri, stringere la cinghia, negarsi altri diletti, essere prudenti e parchi nelle spese e depositare il denaro così racimolato su un libretto di risparmio nella speranza di riuscire, con la cura e la pazienza necessarie, ad accumularne abbastanza per poter realizzare i propri sogni. Grazie a Dio e al buon cuore delle banche, non è più così. Con la carta di credito si può invertire l'ordine: prendi subito, paghi dopo. La carta di credito rende liberi di appagare i desideri a propria discrezione. Avere le cose nel momento in cui le vuoi, non quando te le sei guadagnate e te le puoi permettere. Questa era la promessa, ma sotto c'era anche una nota in caratteri minuscoli, difficile da decifrare anche se facile da intuire, in un momento di riflessione. Quel perenne dopo, a un certo punto, si trasformerà in subito e bisognerà ripagare il prestito. Il pagamento dei prestiti contratti per non aspettare e soddisfare subito i vecchi desideri renderà difficilissimo soddisfarne di nuovi. Non pensare al dopo significò, come sempre, guai in vista. Si può smettere di pensare al futuro solo a proprio rischio e pericolo. Sicuramente il conto sarà salato. Più presto che tardi arriva la consapevolezza che allo sgradevole differimento del pagamento si è sostituito un breve differimento della vera terribile punizione per l'essere stati precipitosi. Ci si può togliere uno sfizio quando si vuole, ma anticipare il diletto non lo renderà più abbordabile. In ultima analisi sarà differita solo la presa di coscienza della triste realtà. Per quanto nociva e dolorosa, questa non è l'unica nota in caratteri minuscoli sotto la promessa del prendi subito, paga dopo. Per evitare di limitare ad un solo prestatore il profitto derivante dalle carte di credito e dai prestiti facili, il debito contratto doveva essere, e così è stato, trasformato in un bene che procuri profitto permanente. Non riesci a ripagare il tuo debito? Non preoccuparti. A differenza degli avidi prestatori di denaro vecchio stile, ansiosi di vedere ripagate le somme prestate entro termini ben precisi e non differibili, noi prestatori di denaro moderni e disponibili non ti chiediamo indietro i nostri soldi, bensì ci offriamo di prestartene altri per pagare il vecchio debito e avere un po' di disponibilità, cioè di debito, in più, per toglierti nuovi sfizi. Siamo le banche che dicono sì, le banche disponibili, le banche col sorriso, come diceva una delle pubblicità più geniali. Quello che nessuno spot diceva apertamente, lasciando la verità ai cupi presagi del debitore, era che le banche prestatrici in realtà non volevano che i debitori pagassero i debiti. Se lo avessero fatto entro i termini, non sarebbero stati più in debito, ma sono proprio i loro debiti, il relativo interesse mensile, che i moderni, disponibili e geniali prestatori di denaro hanno deciso, con successo, di riciclare come fonte prima del loro profitto costante, assicurato e si spera garantito. I clienti che restituiscono puntualmente il denaro preso in prestito sono l'incubo dei prestatori. Le persone che si rifiutano di spendere denaro che non abbiano già guadagnato e si astengono dal prenderlo in prestito non sono di alcuna utilità ai prestatori, perché sono quelli che, spinti dalla prudenza o da un senso antiquato dell'onore, si affrettano a ripagare i propri debiti alla scadenza. L'odierna stretta creditizia non è il risultato del fallimento delle banche. Al contrario, è il frutto del tutto prevedibile, anche se nel complesso inatteso, del loro straordinario successo. Successo nel trasformare un'enorme maggioranza di uomini e donne, vecchi e giovani, in una genia di debitori, perenni debitori, perché si è fatto sì che lo status di debitore si auto-perpetui e si continuino a offrire nuovi debiti come unico modo realistico per salvarsi da quelli già contratti. Entrare in questa condizione, ultimamente, è diventato facile quanto mai prima nella storia dell'uomo. Uscirne non è mai stato così difficile. Tutti coloro che erano nelle condizioni di ricevere un prestito e milioni di altri che non potevano e non dovevano essere allettati a chiederlo sono già stati ammaliati e sedotti a indebitarsi. Negli Stati Uniti il debito medio delle famiglie è cresciuto negli ultimi 8 anni, anni di apparente prosperità senza precedenti, del 22%. L'ammontare totale dei prestiti su carta di credito non pagati è cresciuto del 15%. E, cosa forse più minacciosa, il debito complessivo degli studenti universitari, la futura elite politica, economica e spirituale della nazione, è raddoppiato. L'insegnamento dell'arte di vivere indebitati, per sempre, è ormai inserito nei programmi scolastici nazionali. Si è arrivati a una situazione molto simile in Gran Bretagna. Il resto dei paesi europei segue a non grande distacco. Il pianeta bancario è a corto di terre vergini, avendo già sconsideratamente dedicato allo sfruttamento vaste estensioni di terreno sterile. La reazione finora, per quanto possa apparire imponente e addirittura rivoluzionaria per come emerge dai titoli dei media e dalle dichiarazioni dei politici, è stata la solita. Il tentativo di ricapitalizzare i prestatori di denaro e di rendere i loro debitori nuovamente in grado di ricevere credito, così il business di prestare e prendere in prestito, dell'indebitarsi e mantenersi indebitato, potrebbe tornare alla normalità. Il welfare state per ricchi, che a differenza del suo omonimo per i poveri non è mai stato messo fuori servizio, è stato riportato in vetrina dopo essere stato temporaneamente relegato nel retrobottega per evitare invidiosi paragoni. Lo Stato ha nuovamente flesso in pubblico muscoli a lungo rimasti inattivi, stavolta al fine di proseguire il gioco che rende questo esercizio ingrato ma abominevole a dirsi inevitabile. Un gioco che stranamente non sopporta che lo Stato fletta i muscoli, ma non può sopravvivere senza. Quello che si dimentica allegramente e stoltamente in questa occasione è che l'uomo soffre a seconda di come vive. Vivere a credito dà dipendenza come poche altre droghe, e decenni di abbondante disponibilità di una droga non possono che portare a uno shock e a un trauma quando la disponibilità cessa. Andare alle radici del problema non significa risolverlo all'istante. È però l'unica soluzione che possa rivelarsi adeguata all'enormità del problema e a sopravvivere alle intense, seppur relativamente brevi, sofferenze delle crisi di astinenza. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Zygmunt Bauman, Schiavi della carta di credito, così finiamo nell'abisso, da Repubblica dell'8 ottobre. La traduzione dell'articolo è di Emilia Benghi. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Angelo Panebianco, Università senza testa, dal Corriere Magazine del 10 ottobre.